pensione, ci avrà più rimesse che guadagnate. Frank Coppola, boss italo-americano, padre di Turatello. Una persona molto amabile, molto pacato, poche parole però incisive. Questo alone di mistero, che lui quando arrivava si metteva nella sua stanza, la solita camomilla, i soliti passatelli, mai una cosa eccentrica che lasciasse capire che lui era un vecchio gangster. Mi chiamava buongiorno e buonasera. Il viaggio negli Stati Uniti. Questi viaggi in America in realtà poi sono serviti a fargli conoscere degli altri personaggi che erano in Italia. Il desiderio del vecchio era quello di pensare che Francesco avrebbe deciso di trasferirsi in America, ma lui è andato più volte, ma una notte si è guardato intorno e ha detto: ma io la mia Las Vegas ce l'ho a Milano. La banda della Magliana. Io li sentivo chiamare i romani e loro avevano questa specialità di fare questi enormi furti di scavo, diciamo, di forare questi muri, di andare su dalle fogne e di entrare in questi posti, in queste banche, in queste gioiellerie, lavorando di lancia termica. I rapporti con Bettino Craxi. È innegabile che molti politici, tanti poliziotti frequentavano queste bische e questi locali notturni. Un certo signore di quell'epoca della Milano socialista che frequentava il Marocco e quindi erano amici, si vedevano, era un'amicizia palese. Francesco voleva fare delle cose normali, perlomeno stare come tanti di quell'epoca tra il lecito e il non lecito, perché tra di loro c'era fiducia, c'era simpatia. Le ossessioni di Turatello. Le scarpe lucide, neanche un pelo sulla giacca, i suoi gemelli, tutte queste cose coordinate, anche in carcere. Il motto di Turatello: o si lavora o si ruba, senza niente da fare non si può stare. Diceva sempre: ragazzi, oggi cosa si fa? Se uno vuole lavorare, io lo aiuto a lavorare. Se uno non vuole lavorare, qualche cosa deve fare. Nino conosce Turatello in carcere, da sempre lo considera un gangster puro. Significa che avere delle regole precise come militari. Prima in assoluto era l'amicizia, salvaguardare l'amicizia e morire insieme con l'amico. Non toccare i bambini, non vendere droga. Quando si faceva un lavoro si divideva in parti uguali. Quando c'è da fare un'azione non tirarsi indietro. La mala d'allora era romantica. Era una che apriva la porta alla propria donna. Inoltre Turatello aiutava tutti quelli che erano nel carcere, addirittura persone che non avevano a che fare con la sua batteria, ma che lui considerava dei bravi ragazzi, tesi come quelli che si facevano il proprio carcere sulla propria pelle e non infamavano. Il carcere di massima sicurezza di Cuneo, dove le guardie carcerarie erano toste, nel senso che chiunque arrivava, tolto Francis Turatello, tutti sono stati massacrati. In un'occasione toccarono uno dei suoi uomini, lo massacrarono, portarono in isolamento davanti a 40 guardie carcerarie, prese il brigadiere della squadretta, disse: la prossima volta che tocchi un uomo di miei ti brucio vivo. Turatello è stato ucciso con 42 coltellate il 17 agosto 1981 nel carcere di Badue Carros. Ero in quel passeggio, non mi è stato detto perché solitamente si comunicava, dopodiché qualche mio amico è venuto vicino e mi ha detto non fare il perla. Sembravano tutti d'accordo a questa morte, che poi tutti si sono pentiti. Ancora oggi, a distanza di 30 anni, insomma, non me ne faccio una ragione. Onore, libertà, amore sono i valori che Turatello ha lasciato al suo unico figlio, Eros, oggi quarantenne. Hanno un sapore più da adulto che da bambino, perché da bambino non li recepivo tanto. Vedevo questi insegnamenti quasi come un tradimento di mio papà nei miei confronti, che mi diceva di fare il contrario di quello che faceva lui. È una cosa che ho capito col tempo, le cose più importanti, l'affetto, l'amore in generale, la libertà, perché è una cosa assolutamente senza la quale ogni persona non può considerarsi viva, l'onore e il rispetto, che è venuto fuori in molti discorsi con mio papà, appunto, parola d'onore di non ripetere i suoi errori. Suo padre è morto che lei aveva 9 anni. Ho ricordo di un padre che mi portava allo zoo, che mi portava a sciare, che mi faceva ridere tantissimo, che aveva un atteggiamento verso di me da padre ma anche da amico. Per cosa ha sofferto di più? La mancanza soprattutto al matrimonio e quando è nata mia figlia. Cosa non ha e cosa ha perdonato a suo padre? Una cosa che non gli ho perdonato da aver fatto questa scelta nella vita, perché comunque sono delle persone che secondo me avrebbero potuto fare delle cose eccezionali e in maniera positiva, propositiva per se stesse, per gli altri, e purtroppo lui non c'è più, ha pagato con la vita i suoi errori. Ti fa arrabbiare tanto, perché comunque si trattasse di una persona con poca testa, con poco cervello, probabilmente si poteva capire di più. Invece quello che gli ho perdonato è il fatto di essere riuscito, nonostante tutto, aiutano a direzionarmi probabilmente verso la strada giusta. Cosa ha preso da suo padre? Mediare e dialogare, cioè mi piace molto prima di agire cercare di parlarne fino all'ultimo. Sua nonna Luisa Turatello. Se ne parla molto poco perché anche lei era una persona che parlava poco o parlava quando era giusto. Lei mi ha fatto, oltre che da nonna, da madre, da padre e in molti casi da amica, perché io comunque sono cresciuto con lei, ed è stata una figura molto forte che è riuscita a proteggermi. Avete ascoltato la Milano di Turatello, i reportage di Paola Ceretta e l'Italia in Controluce. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24 con un reportage di Anna Marino verso il 2 giugno con le testimonianze di Carlo Smuraglia, Giovanni Sartori, Don Luigi Ciotti.